Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ogni mese, per noi che eravamo il gruppo d'onore, ossia che avevamo i voti migliori, il premio era una giornata intera in campagna. In quelle occasioni ci accompagnava il nostro professore di letteratura, padre Manolo. Quello deve essere padre José, no? Ignazio lo odiava. Continua a picchiare gli alunni. A Ignazio non ha mai messo le mani addosso. No? No, quello era privilegio del direttore. Riassumendo, voglio 1.000.000 in contanti. Se no, Diario 16 pubblicherà integralmente questo racconto. Ma io non ho 1.000.000 di pesetas, tanto meno in contanti. Però può procurarselo. E così sei venuta a ricattarmi. Dì a Ignazio che sopravvaluta questi fogli. Sono pura spazzatura. La spazzatura è in rialzo, padre. Lei e io formiamo... Parlare di preti e pedofilia è un argomento che dà fastidio a trattare per una duplice ragione. Primo perché è un argomento difficile soltanto da pronunciare, immaginare delle persone a cui comunque dei ragazzi vengono affidati perché se ne occupino, perché li formino, non soltanto dal punto di vista dell'educazione. E questa è La mala educazione di Pedro Almodóvar, un film che fece molto discutere, che parla appunto di un caso diffuso, seppellito e nascosto di atteggiamenti, di esplicite attenzioni sessuali, violenza sessuale nei confronti di ragazzi di un collegio in Spagna negli anni 60. Poi c'è una storia romanzata, ma la realtà sembra riprodurre quello che, ahimè, è un fenomeno che pare diffuso. Secondo motivo per cui è difficile parlarne, perché uno ha sempre la paura di incappare nell'accusa di pregiudizio. A me succede tutte le volte che ne parlo, qualcuno mi scrive: tu ce l'hai coi preti, tu sei anticlericale. Non ce l'ho particolarmente con i preti, più di quanto possa avercelo con tante altre persone, per motivi personali e esistenziali. Non ho nessun pregiudizio, penso che comunque in ambienti in cui esista molta promiscuità e molto contatto non controllato tra adulti e bambini, c'è sempre il problema o la paura che qualcuno si metta a fare quella professione, si metta in quell'ambiente, scelga quella strada proprio perché vuole sentirsi come la volpe in un pollaio, libero di rapinare sotto appunto il grande cappello del fatto che comunque la sua professione gli impone un contatto con i bambini. Questo vale per i preti come vale per gli educatori, per gli allenatori sportivi, per i tutori, per tutti coloro, anche per probabilmente per i medici che si occupano appunto di infanzia. Tutti coloro che scelgono comunque una professione che tiene vicino all'infanzia comunque diventano delle categorie appetibili di chi vuole fare quel lavoro proprio per poter avere impunemente possibilità di svolgere quella che è appunto la sua tendenza, la sua devianza, il suo devianza detto in senso che è un atto di violenza, di sopraffazione indicibile nei confronti di persone che non hanno strumenti per difendersi e per fronteggiare. Detto questo, andiamo alla novità di questo problema. Se ne è parlato tanto, ne abbiamo parlato tanto anche noi, abbiamo portato spesso testimonianze. Anche oggi chiedo alle persone che avessero nella loro esperienza personale e privata esempi che possono corroborare quello che diciamo, chiamino pure, o anche per contrastare quello che diciamo. La novità viene, e la sentiremo tra qualche istante, proprio da un'associazione che in Italia raccoglie quelle sono le vittime proprio di atti di violenza sessuale da parte di preti, che hanno fatto una loro inchiesta, una loro indagine, e ce ne parleranno tra un istante. 800 24 00 24. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Ignazio, so che siete lì, vi ho visto i piedi, vi sto sentendo respirare. Ignazio! Non stiamo facendo niente! Vattene! Mi occuperò dopo di te! Non voglio lasciare Ignazio solo con lei! Come ti permetti? Esci di qui immediatamente! Enrique, per piacere! Fa quello che ti dice! Un un ambiente limaccioso, pieno di segreti indicibili, incondivisibili, che tengono legati, cementati, quelli che sono i tutori, gli istruttori, i maestri di vita, le guide spirituali, il tramite con l'assoluto e dei bambini a loro affidati. Questa è la fiction, ma qual è la realtà? Francesco Zanardi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Presidente della rete L'Abuso, associazione italiana vittime di preti pedofili. Ci siamo via via negli anni sentiti spesso su questo tema. Vorrei capire qual è il punto di svolta o il punto di stagnazione. Se ne parla in maniera ricorrente ogni tanto, un po' meno in questi ultimi tempi. Sembra un problema che è stato rimesso sotto il tappeto o un problema che forse è in via di risoluzione. Qual è il suo punto di vista? A nostro avviso un problema che è di nuovo finito sotto il tappeto. Ecco, abbiamo casi di cui se ne è parlato pochissimo, nuovi ad esempio su Don Lucio Gatti, che era già stato condannato nel 2014, c'è un nuovo caso, questa volta ad accusarlo è un ragazzino di 13 anni, un fatto questo di cui si è parlato poco in Italia. In Italia manca, a nostro avviso, il fatto che il governo non abbia mai, a differenza degli altri stati membri dell'UE, quantificato il problema della pedofilia clericale in Italia, che ha delle cifre percentuali elevate dal 2 al 4%, e questo stiamo a dichiarazioni fatte, una dal cardinale Claudio Hum nel 2009 e l'altra fatta da Bergoglio. Il problema più grosso è quello delle vittime. Scusi, il Papa Francesco, nella famosa intervista di Eugenio Scalfari, dà dei numeri, dice il 2% tocca il 2% del clero, come se fosse una cifra bassa, ma non è poi tanto bassa. No, non è bassa. La percentuale. Assolutamente non è bassa, e la cosa che dovrebbe... Qual è la media? Esiste una media stabilita nel mondo di come si è diffuso, diciamo, il problema della pedofilia nelle varie categorie professionali, diciamo, più a rischio? Sì, in genere si danno, per questo che appare un dato molto basso, in genere si danno dati globali su pedofilia fuori dal mondo della Chiesa e pedofilia del clero, e quindi in realtà apparentemente il dato del clero è basso. In realtà i dati vanno dati per categoria: il prete, l'educatore, l'allenatore, il maestro. Allora il dato inizia a diventare più consistente. Ecco, la cosa più preoccupante secondo me però non è neanche tanto la percentuale quanto il numero di vittime che i sacerdoti riescono a produrre. Questo a causa del fatto che vengono spostati, e questo accade tuttora malgrado, diciamo, le varie novità che ha inserito Papa Francesco nel codice canonico. Purtroppo abbiamo ancora dei casi dove addirittura... Sì, novità che però dal punto di vista puramente giuridico riguardo il braccio secolare, chiamiamolo così, non cambiano moltissimo. Non esiste ancora l'obbligo di denuncia da parte dei vescovi, mi pare. Assolutamente no, infatti le stavo citando proprio un caso emblematico, il caso di Don Francesco Rutigliano, che è stato, era un parroco della Locride, è stato condannato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede a 5 anni di sospensione per abuso di minore, e è stato reintegrato nel settembre del 2015 a Civitavecchia e non è mai stato denunciato all'autorità giudiziaria. Allora, un attimo solo, Francesco Zanardi, mi riassuma in un minuto qual è diciamo, il risultato di questa vostra inchiesta. Riassumo, poi mi dica se ho visto bene. Voi avete visto che in Italia esistono degli ameni centri di ricovero, che sono delle ville, sono delle case per religiosi, addirittura c'è il centro di Colle Valenzi, sono umbro, mi ricordo, c'era questa Madre Speranza, questa monaca che faceva miracoli, c'è luoghi mistici dove in realtà vengono periodicamente ospitati questi sacerdoti che in maniera inequivocabile comunque sono stati toccati da casi di abuso e pedofilia, dove vengono in qualche maniera, non so come, voi forse sapete meglio di me, recuperati e poi vengono rimandati alle stesse parrocchie. Sì, esattamente questo quello che succede. Io sono un po' più critico, ecco, sul recuperati. In realtà purtroppo in moltissimi casi, ad esempio a Villa Sacro Cuore abbiamo diversi casi abbastanza famosi e recenti in Italia di sacerdoti che sono gli arresti domiciliari. Ecco, diventa un po' uno specchietto anche per le allodole, gradito dalle dei tribunali, perché si tolgono, diciamo, l'impiccio di avere... Cioè li mettono agli arresti domiciliari in questa sorta di villa, di posto a meno, perché mica deve essere per forza con le sbarre. Ma lì che tipo di terapia fanno? Esiste una terapia di recupero per una persona che in maniera compulsiva, ripetitiva, abusa decine se non centinaia di bambini? Ma a mio avviso no, tanti medici condividono questa mia opinione, anche perché diciamo, i dati sulla reiterazione del reato da parte di pedofili, non solo preti ovviamente, è piuttosto alto. La pedofilia non è una malattia come spesso viene fatta passare, ma in realtà è una forte devianza della personalità che da quello che si vede, dai risultati che emergono, magari si riesce in qualche modo a contenere. È difficile, diciamo così, guarire, quindi è sicuramente inadatto una volta che il sacerdote ha finito il suo percorso, qualunque esso sia. Ma cosa gli fanno? Li fanno pregare, gli fanno fare i fioretti, gli mettono degli psicanalisti, non so adesso esattamente. Mi pare che, da come dice lei, è un trattamento necessario di tipo farmacologico, psichiatrico, non so bene se è un atto di violenza, è come un serial killer, qualcosa del genere. Il reato viene visto come un peccato, la pedofilia nella Chiesa, perché non viene vista come un reato. Se facciamo ad esempio il paragone, che un po' mi spiace farlo, ma in questo caso ci sta, tra pedofilia e omosessualità, l'omosessualità per i membri del clero è un reato, e abbiamo dei casi dove sacerdoti che hanno esternato pubblicamente la loro omosessualità, non ultimo mi sfugge il nome... Sì, lo so, è venuto anche qua a parlare del suo libro, sì, è un altro prelato vaticano. Un vuoto di memoria, sì. E quelli in pochi giorni vengono ridotti allo stato laicale, vengono allontanati dal clero, mentre nei casi di pedofilia si cerca il recupero, ecco, e questo dà una visione abbastanza... di come viene visto dal Vaticano, di come vengono viste le due cose dal Vaticano, ecco. Allora fermiamoci solo un secondo, perché vede, come ogni volta che parliamo di questo argomento chiamano subito persone con fatti concreti da raccontare. Gian Battista, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto, io... sia veloce, stringato, e faccio la sua testimonianza. Ma molto veloce e stringato. Era a cavallo degli anni 60, fine 50-60, io ero in un collegio nel nord Italia, ad Alba, tanto per dire, il collegio non c'è più, quindi non dico niente per nessuno, e ero in collegio e ero l'unico, diciamo, bambino più piccolo, avevo 8-9 anni, che rimaneva sempre lì, abitavo lontano a Milano, quindi non potevo andare a casa a fine settimana, mentre molti altri andavano a casa, quasi tutti, e niente, l'assistente, diciamo, educatore, piano piano si è introdotto nel mio privato un po' di più, dei miei genitori che erano separati, questo, quello, quell'altro, e diciamo la sera mi trattava un po' diversamente gli altri, qualche favoritismo in più, una roba e l'altra, e mi accoglieva nella sua cameretta la sera per parlare un po', parla qui, parla lì, parla là, e alla fine, diciamo, è andato oltre il parlare, ecco, tanto per essere concreti. E lei come ha reagito? Come hai agito? Io allora lo subii, cioè era un bambino, me era... Io avevo 8-9 anni. Che poteva fare? Non l'ha raccontato a nessuno? Sì, poi lo raccontai a mia madre l'anno dopo, venne fuori tutto un po' un casino, diciamo, dal punto di vista comportamentale per lui. Alla fine io poi lasciai il collegio 2 anni dopo, seppi che lui era stato allontanato, ecco. Punito no, allontanato sì. Grazie. Nicola, buongiorno. Nicola, spenga la radio però. Spenga la radio però. Ecco. Pronto? Sì, l'ascolto. Non sento. La sto ascoltando, parli. Se metto il telefono vicino all'orecchio mi sente. Niente, Nicola è caduto, abbiamo un problema con le telefonate. Allora, Francesco Zanardo, di cui stavo parlando, ricordo che penso che il padre di cui lei faceva menzione era Christoph Charasma, ha scritto la prima pietra, è un padre di questo si parla. Mi dice esattamente che tempo avete messo e che elementi avete raccolto rispetto a questi 5 posti che avete... Siete riusciti a entrare, a visitarli, o le informazioni sono soltanto dall'esterno? Ma siamo riusciti a rintracciare l'ultimo, Villa Sacro Cuore, che è appena fuori dalla città di Castello, a Perugia, tramite la segnalazione addirittura di sacerdoti, ci hanno segnalato questa casa. Conoscevamo l'esistenza, ma in realtà la confondevamo con un'altra casa sempre nel Perugino, e quindi ci siamo accorti che c'è questa casa nuova, e all'interno di questa casa poi abbiamo trovato riscontri anche sulle notizie di cronaca. Sappiamo per certo che ci sono dentro Don Giampiero Pesciulli, Don Giovanni Desio, che insomma sono due casi abbastanza noti in Italia, e un terzo prete, Thomas Codijan, che è un sacerdote attualmente indagato dalla Procura di Livorno. Quindi è una sorta, diciamo, non voglio dire carcere delocalizzato, ma luogo in cui le persone che hanno un procedimento giudiziario concreto alle loro spalle sono lì radunate. Anche sull'opportunità poi di metterli tutti assieme, probabilmente non sono io a doverlo dire, ma bisogna farsi qualche domanda. Però ci fermiamo un istante, ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop del voto che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Melog, cronache meridiane. È un racconto di Ignacio. Sì, Ignacio ha seguito i suoi consigli e ha continuato a scrivere. Io ho un amico, una Luridona, che lavora a Diario 16 e che è interessata particolarmente a pubblicare questo racconto. Però prima vorrei che lei mi desse un suo parere, perché oltre ad essere stato il professore di letteratura di Ignacio, vede, lei è uno dei protagonisti di questa storia. Qualunque cosa tu dica, la gente crederà a me, non a te. No, la gente è cambiata. Siamo nel 77. Questa società apprezza più la mia libertà che la sua ipocrisia. Se abbiamo trattato... Il prete abusatore era così certo che la gente... Parlo sempre del prete abusatore, della maleducazione. Era così certo che la gente avrebbe creduto più a lui che a storie di bambini, molte volte provenienti anche da famiglie disastrate. Siamo nel 2016, è ancora difficile definire quale sia esattamente la consapevolezza di responsabilità un'istituzione come la Chiesa nei confronti dei suoi pastori che abusano. Mi scrive un ascoltatore, dice, quanto sia originale, perché non parli in generale di pedofilia o parli delle spose bambine, perché è un argomento molto stretto, un argomento circoscritto, è un argomento che ha delle sue singolarità e delle sue fattispecie. Parliamo di persone che hanno votato la loro vita comunque a un'azione pastorale, un'azione spirituale. Delle persone che fare dell'etica e della morale la loro bandiera, delle persone che hanno comunque facilità e possibilità illimitate di avere promiscuità con bambini e con esseri indifesi, e quindi è importante risvegliare l'attenzione sul fatto che l'istituzione che li controlla, che li protegge, debba anche salvaguardare le persone di buona volontà, di fede, di innocenza, di giusta e incondizionata fiducia nella loro opera, di essere salvaguardate da queste persone. Questo sembra che non stia accadendo. Abbiamo recuperato Nicola. Nicola, buongiorno. Salve, sì. Signor. Adesso la sento. Sento molto piano, ma ce la faccio. Si vede che il telefono non prendeva bene, non prende bene. Senta, io riguardo alla sua trasmissione di oggi, ho 67 anni, eppure quell'episodio non mi è mai io avevo passato, mi ha sempre turbato tutta la vita, anzi mi ha portato un po' a, le dico la verità, dal cuore, odio i preti, punto. I preti, non le persone, la religione, no, i preti. Ho un rancore profondo sempre dentro di me, tanto che a 20 anni sono andato a cercare questo collegio dov'ero, ma non c'era più, c'erano dei privati che lo gestivano, c'erano tutte suore. Io avevo 6 anni, mio padre era un dipendente Fiat, allora la Fiat aiutava i bambini e le famiglie bisognose, anzi era un collegio anche distinto, a Torino, e si era gestito dalle suore. E questo prese, queste svolte, chiamiamolo come vogliamo, era anche giovanile per quel poco che mi ricordo. Io ero proprio un bambinello uscito da casa, mai stato fuori, e anche lì ero fisso, andavo solo a casa del cancro. Difatti che ogni settimana si confessava, pensi lei a 6 anni, che cavolo, che calci possiamo fare, comunque, si confessava, e non so se la prima o addirittura la seconda volta, adesso non lo ricordo bene, cominciò a chiedermi domande intime, se facevo qualcosa di male con questo, allungando le mani, e andò oltre, come il signore che ha telefonato il primo, anch'io ero in collegio, quindi... E le scuole si lasciavano lì dentro anche per 20 minuti, mezz'ora. Eravamo circa 150... Chiunque abbia fatto una scuola dei preti sa che la prima regola che si passa di bocca in bocca tra ragazzini è quella, dice, quando il prete ti confessa, mi raccomando, vai nel confessionale, quello chiuso, quello con la grata. Non andare mai a confessarti in camera del prete, lui sulla sedia, tu in ginocchio. Non andare mai a confessarti se non dentro un confessionale chiuso. Questo lo dissero anche a me quando andai il quarto ginnasio dai Salesiani, e infatti scelsi sempre il confessionale chiuso e a me andò bene. Luigi? Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Praticamente la mia storia è la fotocopia di questo signore che mi ha appena passato davanti. Io ho 70 anni, però sono passati 60 anni esatti nel 56 e avevo 10 anni e ricordo benissimo quando questo prete curato, ex curato, però rimasto sempre nella parrocchia della cattedrale dove eravamo noi, si portava nel confessionale i ragazzini, tutti della mia età, tutti di 10 anni. Naturalmente non c'era, come parlavate voi prima, la grata, ma c'era l'inginocchiatoio e lui in fianco. E regolarmente, ma non lo dico che è successo a me, perché io ho parlato con tutti gli altri ragazzini della mia età, alcuni ne abbiamo parlato, altri della mia età che ci siamo trovati, siamo rimasti amici, ogni tanto ricordiamo questi episodi. Lui regolarmente, senza nessun motivo, anche apparente, anche senza domande, entrava con le mani a toccarti il pistolino. Ormai sembra quasi una cosa entrata nella prassi, nella regola. Non c'è persona che non abbia frequentato una città, una scuola di preti, che non racconti comunque episodi del genere. Questo mi fa pensare. Federico Tulli, buongiorno. Buongiorno. Federico Tulli è un giornalista, ha scritto un libro, Chiesa e pedofilia, il caso italiano, edizioni Asino d'Oro, collabora con vari periodici, qui Left, Avvenimenti, e con direttore di Cronache Laiche. Federico Tulli, gli episodi che ci stanno riportando i nostri ascoltatori, non sono telefonate preparate ma chiamano spontaneamente, sembrano affondare tutti in un'epoca un po' lontana, tutta gente sui 60-70 anni, la classica o adescamento del prete, può essere il prete toccone o anche il prete abusatore, non sappiamo poi l'esito di queste cose. Comunque sia, riportano una prassi che sembrava abbastanza tollerata o accreditata negli istituti religiosi in quegli anni lì. Ma le cose sono cambiate con gli anni, tu hai fatto un'inchiesta, hai studiato, hai visto le carte, hai dati in mano, è cambiata molto, sono cambiate le tecniche, è cambiata la modalità, è cambiato il modello di approfittarsi della promiscuità? No, direi di no, per rispondere in maniera molto sintetica. Diciamo il contesto è il contesto che non è affatto modificato rispetto appunto alle storie che abbiamo ascoltato e che ahimè confermano quello che anche Zanardi ha detto tra le righe, cioè che sono storie che si assomigliano tutte in maniera molto particolare. Per contesto intendo anche contesto culturale, perché la particolarità, un ascoltatore prima citavi tu, ha detto giusto, cioè la questione della pedofilia nel clero fa parte di un fenomeno ovviamente molto più ampio, però presenta alcune particolarità e forse quella fondamentale sta nella confusione che ancora si fa tra peccato e reato. La Chiesa definisce la violenza pedofila un atto sessuale di un chierico con un minore. Ora, in un atto violento non c'è mai sessualità, e questa concezione deriva si lega fondamentalmente a quello che dice il sesto comandamento, cioè non commettere atti impuri. E poi è un atto impuro, non si considera l'esito nefasto sulla vittima. ed è ancora di più, cioè il catechismo della Chiesa Cattolica, quindi venendo diciamo in tempi molto più recenti, l'ultimo aggiornamento è del 92, firmato da Giovanni Paolo II, definisce, cioè non fa differenza tra atto sessuale tra due adulti, due persone consenzienti al di fuori del matrimonio, non fa alcuna differenza appunto tra questo, la masturbazione, la violenza su una donna, su un bambino. Mi sembra molto singolare. Adesso non vorrei entrare in temi che poi sembra che uno abbia pregiudizi, ma ci sono difese col macete tra i denti per l'embrione nell'istante esatto in cui lo spermatozoo feconda l'ovulo, che già diventa una persona, e non si pensa al danno irrecuperabile, un essere umano formato, senziente, con la sua esperienza di vita, con la sua capacità di avere il mondo intorno come un bambino abusato da un prete. Senti, mi dai qualche informazione in più su questi 5 centri che l'associazione L'Abuso ha visitato, ha visto, ha classificato? Tu ne hai notizie? Sai esattamente cosa accade? Chi frequenta questi centri? Intanto ecco, chiudo solo con una citazione del catechismo che definisce queste cose offese alla castità, quindi non è una violenza contro una persona, quindi nello specifico contro un bambino, ma un'offesa a Dio, e quindi o al più nei confronti di un sacramento. Pure tu hai parlato del confessionale, molti di questi, gran parte di questi fenomeni violenti, di queste violenze avvengono nell'ambito del confessionale. Eh sì, perché si comincia a fare domande precise sugli atti impuri. Si spiega ai ragazzini cosa sono gli atti impuri, perché probabilmente manco lo sanno quando sono tanto piccoli, e poi si comincia a mimare e a esemplificare cosa sia l'atto impuro. Vedendo, ecco, ai centri di cui ha parlato anche Zanardi, io ecco, citerei due film che magari ecco, anche molti degli ascoltatori hanno sentito nominare, sicuramente Spotlight, il film premio Oscar di quest'anno, che racconta in maniera egregia quello che i giornalisti d'inchiesta del Boston Globe nel 2002 sono riusciti a scoprire riguardo appunto la copertura al sistematico insabbiamento dei casi di pedofilia nella Chiesa nell'ambito della diocesi di Boston. E nell'enorme mole di articoli che si parla di un prete che ha fatto 130 stupri, un vecchiettino, sì, che sembrava del tutto innocente, che viveva con la sorella, totalmente libero, tranquillo. E sono stati loro a scoprire l'esistenza di questa diciamo di queste strutture, che poi comunque negli Stati Uniti erano cliniche private che la Chiesa utilizzava per diciamo dirottare questi sacerdoti, loro li chiamano in difficoltà, ecco, Spotlight è uscito all'inizio di quest'anno. Nello stesso periodo c'è stato un film di Pablo Larraín, Il Club. Pablo Larraín ha vinto con questo film L'Orso d'Argento a Berlino lo scorso anno, che parla, cioè proprio girato all'interno di una di queste case di cui ha parlato anche Zanardi. E non ci sono solo sacerdoti pedofili, sono sacerdoti che hanno diciamo diversi tipi di difficoltà, quindi sono sacerdoti alcolizzati, che hanno commesso furti. In comune a tutti c'è che sono lì e non cioè sono sottratti, come dire, alla giustizia. Quello che abbiamo detto poco fa, Federico Tulli, è una sorta di delocalizzazione delle strutture in cui dovrebbero essere normali cittadini che hanno compiuto dei reati essere messi, o degli arresti domiciliari, ma il domicilio diventa a sua volta una struttura specializzata nel contenere persone che hanno compiuto atti comunque criminosi. Ci fermiamo un istante, tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Allora, sarò io a ricordare con grande velocità quelle che è questa mappa, che è stata appunto definita dalla rete L'Abuso, che è un'associazione italiana di vittime di preti pedofili, che contempla una serie di strutture in Italia, cioè la cartina con tutti i posti dove sarebbero ospitati comunque dei sacerdoti che hanno procedimenti a loro carico, comunque accusati di atti di pedofilia, per essere recuperati. E dopo il recupero, che avviene naturalmente con procedimenti di espiazione, visto che viene considerato un peccato e non un reato, vengono rimessi comunque in un circuito pastorale. Uno è Villa Sacro Cuore, appena fuori Città di Castello, 56 posti letto, e un posto bello situato in mezzo alla campagna, non perché debbano essere brutti. Poi c'è Villa Irida, Verbania, 18 camere, tutte con bagno privato, spazi comuni, una cappella e una serra dove gli ospiti possono coltivare ortaggi e erbe aromatiche. Prima era considerata una prigione, oggi una casa solo per dimenticare. La documentazione dell'associazione abuso. Casa Madre di Trento, gestita dai padri Venturini. Qua c'è un segreto assoluto attorno alle identità degli ospiti. Poi, come ho già detto, Villa Sacro Cuore, vicino al santuario di Colle Valenza, l'amore misericordioso. Poi c'è l'Oasi di Elim, è una clinica per preti orchi nella diocesi di Roma, che per ironia è proprio vicino a un asilo, a un posto dove appunto stanno i bambini. E poi sentiremo cosa ci dicono i nostri ospiti. Intanto sentiamo Elio. Elio, buongiorno. Buongiorno a lei. La mia testimonianza è questa. Il risultato comunque di tutto quello che è successo, io sono stato cacciato dal collegio perché nel dormitorio durante il giorno sono stato avvicinato da uno di questi preti che comunque lui ci avvicinava, ci toccava, ci chiedeva, ci apriva il pantalone, faceva alcune cose. All'epoca avevo 11 anni. Che anni erano, Elio? Che anni erano? Fine anni 60. Mm. Fino a 60, io allora avevo 11-12 anni e mi ricordo che un giorno eravamo lì, pieno giorno, eravamo lì e questo ha iniziato a toccarmi, se non che è arrivato un altro del collegio, un mio amico più o meno coetaneo, 12 anni, forse un anno di più, e ha visto il tutto e praticamente lui ha parlato, è andato a parlare con il direttore del collegio, con il risultato che io poi sono stato cacciato dal collegio per atti contro un prete. Anche adesso solo parlare mi sto agitando. Ha colpito perché... un prete a colpi di pisello, questo sarebbe stato il suo. Sì, lo so, però ha chiamato i miei genitori disperati. No, io non è che voglio drammatizzare, è una cosa drammatica, perché un bambino di 6 anni ha dell'adulto ancora un timore reverenziale, capito? Io 11-12 anni ricordo perfettamente, però sono stato io cacciato dal collegio perché io ero la persona che comunque mi avvicinavo al prete per toccare e invece non è stato così, comunque io sono stato cacciato, però l'innocenza di quei periodi e l'ignoranza di quei periodi non si poteva più di tanto agire o fare altre cose, comunque questa è la mia testimonianza. Ecco. Grazie Antonio, chiudiamo con Antonio. Sì. Antonio. Pronto Nicoletti? Sì, l'ascolto. Complimenti per la trasmissione davvero oggi per quello. Preferirei averli su altre trasmissioni, non su no, questa. Allora, ma comunque bisogna toccare queste cose. Io non ho esperienze personali, però mi rendo conto davvero che questi sono dei killer spietati e altro che recupero e tutto. Questi sono proprio, ledono proprio la personalità dei bambini e della vita sessuale in futuro. C'è gente che si sveglia a 30 anni e non capisce ancora. Va bene, questo è diciamo, il suo punto. Ha dato... Vorrei dire che sì. La cosa più grave è che secondo me loro già dall'età, da un'età di quando sono ragazzi, tutte queste persone scelgono proprio i luoghi. Sì, abbiamo... Antonio, scusi, perché siamo in conclusione. Grazie della testimonianza. L'abbiamo detto all'inizio. È chiaro che uno che ha tendenze morbose nei confronti dei bambini sceglie i luoghi dove può stare in maniera impunita vicino ai bambini. Vediamo con Francesco Zanardi, ricordo presidente della Rete L'Abuso, se riusciamo a dare un punto di conclusione. Allora, qual è il punto, diciamo, di nuova partenza rispetto a questi ultimi dati? Se ne è parlato tanto, se ne è parlato soprattutto col Papa precedente. Questo Papa ha fatto grandi dichiarazioni di intento che non hanno portato in pratica a nulla di fatto. Il fatto che esistano queste strutture cosa significa? Che la Chiesa se li cura in casa a modo suo, gli fa espiare il peccato e poi li rimette in circolo? Tristemente purtroppo questa è la realtà. Io vorrei fare una riflessione, anche prima mi è stata fatta la domanda su a che punto siamo. Ecco, a che punto siamo uno lo può dedurre da solo. Noi vediamo anche questo articolo che abbiamo fatto segnando queste, portando alla luce queste ma qualcuno case. Vi ha smentito, vi ha scritto qualcuno di queste strutture dire non è vero, dite fandonie, non facciamo questo? Assolutamente no, però bisogna riflettere un attimo, ecco qui esistono delle strutture per salvare i preti e non esiste nessuna politica da parte della Chiesa per dare un aiuto alle vittime che ci sono state e per la prevenzione. Evitare che se ne facciano di nuove, soprattutto, evitare se ne facciano di nuove. Esattamente, questo è un dato importante, no? Che purtroppo ci porta a continuare a credere che la Chiesa stia prendendo delle precauzioni, ma a tutela della propria immagine. Noi come associazione abbiamo scritto più volte sia Papa Ratzinger sia Papa Francesco, non esiste un contatto con le vittime da parte del Vaticano. Abbiamo capito che è una matassa difficile a dipanare e sembra quasi una realtà fatale che debba sempre comunque essere legata alla figura del prete. Vedremo se con il tempo cambierà questa cosa. Alla prossima.